sono non le belle buone quelle che racconto a te. Se mi chiami non rispondo, anzi ti mando fior fior. Dice au, prima ridevi ora poi piangi au. Con le tipe e con gli amici au. Dici valgo cash o che tieni un pound. Occhi su di me che volevo dirti c'è au. Frate hai fatto un cazzo più che caos. Non so se una gag o una gang la tua lemao. Sta bici cambiata da bomba miau. Per dirti ciao. Adesso sono famoso con le bici faccio un taxi. Sono passato da essere broke a rich in questione di attimi. Domani sono busy con Trapstar mi trovi a Bari. Mentre suona l'UR se non hai festival italiani. Mia madre aveva ragione. Io ho un piano sempre più grande. Io non ho mai invidiato e per questo che dico grazie. Ho visto un snake lasciare se che vergogna. Fossi te non sarò se manco un giorno. Alright, we're from the trenches, lead man. Non fotti con me, che poi ritrovi i tuoi dog dentro un minivan. Esci dal back, contesti rex. Shai si suo ex, fuck il suo ex, yeah. Queste pussy sono me, ce l'hanno con me. Pretty shot, alright, cause it's coming back. Esci dal back, contesti rex. Shai si suo ex, fuck il suo ex, yeah. Sono stato calmo quando ridevi di me. Sapevo che il karma avrebbe fatto al posto mio. Sono belle, belle, buone quelle che racconto a te. Se mi chiami non rispondi, anzi ti mando fior fior. Dice au, prima ridevi ora bro piangi wow. Con le tipe e con gli amici au. Dici valgo cash o che tieni un pound. Occhi su di me che volevo dirti c'è au. Frate hai fatto un cazzo più che caos. Non so se una gag o una gang la tua mau. Sta bici cambiata da bomba miau. Per dirti ciao, per dirti yeah, ciao. Ok ciao, chiedi au. Mani per diventa tuo baby scout. Io limited tu quello del di 10 anni fa e scrivi out now. Scrivi out now. Cazzo scrivi che non ti si incula manco tua cugina, yeah. Vorrebbe una troia se solo avrei stira. Ti consiglio robot e di quelli senza spina. Mi sfida chi c'ha più sback ti dico dai come on. Non ti aspetta visto Flo DC e la Maron. Fumo un bong e ti rimando in zona comfort. Tanto così stai occhi e non mi caghi il cazzo mai più. Sono stato calmo quando ridevi di me. Sapevo che il karma avrebbe fatto al posto mio. Son belle belle buone quelle che racconti a te. Se mi chiami non rispondo, anzi ti mando fior fior. Dice au, prima ridevi ora bro piangi wow. Con le tipe e con gli amici au. Dici valgo cash o che tieni un pound. Occhi su di me che volevo dirti c'è au. Frate hai fatto un cazzo più che caos. Non so se una gag o una gang la tua lemao. La bici è cambiata da bomba miau. Per dirti ciao, per dirti ciao. Siete ramoscelli nel mio backwood delle schegge. Dopo il mio boom ste cazzate non le sento. Un mio amico si chiamava Ernesto. Diceva chiamami al fresco. Mamma purtroppo sta fresco. Non dire cazzate with me. Da quando stai con lei ti fa stare così. Ma quanto cazzo di tempo ci vuole staccarsi. Se passava un lasso di tempo era ancora più toxic, yeah. Fanculo bro fatturerò, sta sicuro che durerò, vedi. Dicevi no massimo due mesi, amo però ti giuro che lecchi. Bianco e nero pianto vero in stera, non facevano i seri. Barcolano mappe due consensi, tutti uguali fra tipo siamesi, yeah.